Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Robert Jordan era diventato, quanto a opinioni politiche, bigotto e ottuso più di un Battista mummificato, ed espressioni come nemico del popolo gli attraversavano il cervello senza che esso le criticasse nemmeno più. Il suo cervello adoperava, senza criticarle, queste ed ogni specie di frasi fatte, rivoluzionarie e patriottiche. Erano vere, sì, ma uno era tentato troppo facilmente di usarle senza riflettere. Ma dalla sera precedente e da quel pomeriggio il suo cervello era diventato molto più chiaro e nitido. Che strana faccenda la bigotteria. Per essere bigotti bisogna essere assolutamente certi che si ha ragione. E non c'è niente come la continenza che dia quella sicurezza e quel senso d'infallibilità. La continenza è il nemico dell'eresia. Maria era un grosso pericolo per la bigotteria. Finora non aveva ancora intaccato la sua decisione, ma egli avrebbe già molto preferito di non morire. Avrebbe rinunciato molto volentieri alla morte dell'eroe e del martire. Perché non sposarla? Ma certo, pensò, la sposerò. Allora saremo Mr. e Mrs. Robert Jordan di Sun Valley, Idaho, e di Corpus Christi, Texas. Le ragazze spagnole sono mogli straordinarie. Lo so perché non ne ho ancora avuto una, e se mi ridaranno il mio posto all'università, Maria sarà la moglie di un professore, e se gli studenti che fanno il quarto semestre di spagnolo verranno a trovarci la sera per fumare la pipa e fare quelle utilissime libere discussioni su Quevedo, Lope de Vega, Galdós e gli altri illustri morti, Maria potrà raccontare come alcuni dei crociati in camicia azzurra della vera fede le si sedettero sulla testa mentre altri le inchiodavano le braccia, le alzavano le sottane e gliele ficcavano in bocca. Vorrei proprio sapere se Maria piacerebbe alla gente di Missoula, Montana, se riuscirò ad avere di nuovo la cattedra Missoula, si capisce? Probabilmente laggiù mi avranno bollato una volta per sempre come un rosso e messo sulla lista nera generale, però non si può sapere, non si può sapere mai. Non hanno nessuna prova contro di me e certo non mi crederebbero se raccontassi loro quello che ho fatto. E poi il mio passaporto era valido per la Spagna prima che uscissero le restrizioni. Ma intanto la vita che hai o avrai mai è oggi, stanotte, domani. E perciò ti conviene sfruttare il tempo che hai ed esserne molto grato. La faccenda del ponte potrebbe anche andar male, per adesso non si presenta affatto bene. Ma Maria è stata perfetta, no? Come no? Pensò. Forse questo è tutto quello che avrò ora dalla vita. Forse questa è la mia vita. E invece di durare 70 anni sarà 48 ore, oppure 70 ore, o anche 12. Il giorno ha 24 ore e 3 giorni interi sono 72 ore. Se dunque la mia vita, pensò, scambierà i suoi 70 anni con 70 ore, perlomeno ora ho questa cosa preziosa. E se non c'è più domani, ma solo oggi, significa che bisogna apprezzare l'oggi e io ne sono molto contento. Una donna come Pilar ti ficca dunque letteralmente questa ragazza nel tuo sacco. E che cosa accade? Già, che cosa accade? Non mentire a te stesso, non dirti che Pilar te l'ha cacciata nel letto per togliere ogni valore alla cosa e sporcarla. Tu hai perduto la testa appena l'hai veduta, la ragazza. Appena aprì la bocca e ti parlò, tutto era già fatto e tu lo sai. Hai perduto la testa proprio allora, lo sai benissimo. Perché vuoi mentire? Ogni volta che hai visto Maria e ogni volta che lei ti ha guardato, hai provato una sensazione stranissima. Perché non vuoi ammetterlo? L'ammetto, bene. E quanto a Pilar, che te l'ha buttata fra le braccia, Pilar non ha fatto altro che agire da donna intelligente. Aveva protetto fino allora la ragazza e ha capito quello che doveva accadere appena ha visto Maria tornare dentro col tegame in mano. Perciò ha facilitato le cose in modo che voi due poteste avere la notte scorsa e questo pomeriggio. Pilar è maledettamente più civile di te e sa cosa significa il tempo. Sì, sì, disse a se stesso Robert Jordan. Bisogna proprio riconoscere che Pilar ha una nozione sua del valore del tempo. Si è poi avvilita perché, mentre non voleva che voi due perdeste quello che lei aveva perduto, l'idea di averlo perduto le riusciva troppo amara. Perciò lassù sui monti era così avvilita, e noi non l'abbiamo affatto facilitato le cose. «Ti amo, coniglietto», disse a Maria. «Che cosa dicevi?» «Dicevo», essa rispose, «che non devi preoccuparti per il tuo lavoro, perché io non ti darò fastidio e non me ne impiccerò. E se potrò fare qualcosa per te, me lo dirai, no?» «Non puoi fare niente. Mi farò insegnare da Pilar come si fa a curare bene un uomo e farò tutto quello che mi dirà, e quando avrò imparato scoprirò delle altre cose da me e tu me le dirai delle altre. Mi mostrerai come si pulisce la pistola. Pilar ha degli stracci del petrolio e nella caverna abbiamo un bastoncino che dovrebbe entrarci bene. Sì, ti insegnerò». «E poi», disse Maria, «se mi insegnerai come si spara, ognuno di noi potrà sparare all'altro o a se stesso se uno rimane ferito e sta per essere catturato». «Molto interessante», disse Robert Jordan. «Hai molte idee simili?» «Non molte», disse Maria, «ma è una buona idea. Guarda, questo me l'ha dato Pilar e mi ha mostrato come si adopera». Aprì la tasca sul petto della camicia, ne tirò fuori un astuccio di pelle, di quelli che servono per i pettini, e, tolto un grande elastico che chiudeva le due estremità, mostrò a Robert Jordan una lametta affilata da rasoio. «La porto sempre con me», spiegò. «Pilar dice che bisogna tagliare proprio qui, sotto l'orecchio, fin qui sotto», e indicò col dito. «Pilar dice che qui c'è una grossa arteria e che quando si comincia il taglio da qui è impossibile che sfugga. Dice anche che non fa male. Bisogna solo premere forte la lama sotto l'orecchio e poi tirarla giù. Dice che non è niente e che dopo nessuno può fermare l'emorragia». «Esatto», disse Robert Jordan. «È la carotide. Quando sarai ferito ti curerò e ti fascerò le ferite e ti laverò e ti darò da mangiare». «Ma forse non sarò ferito», disse Robert Jordan. «Allora quando sarai ammalato ti curerò e ti farò minestrine e ti laverò e farò tutto quello che ti occorrerà e leggerò per te». «Forse non mi ammalerò». «Allora ti porterò il caffè la mattina quando ti sveglierai». «Forse il caffè non mi piace», disse Robert Jordan. «Ma sì, il caffè ti piace», disse la ragazza felice e divertita. «Stamattina ne hai bevuto due tazze». «Supponiamo che il caffè mi stanchi e che non mi sia necessario spararmi e che non sia né ferito né malato e che rinunci al fumo e che abbia solo un paio di calzine. Che cosa farai allora, coniglietto?» le disse battendole sulla schiena. «Se non posso far niente per te, ti starò seduta vicino e ti guarderò e la notte faremo l'amore». «Bene», disse Robert Jordan, «quest'ultimo progetto mi sembra molto sensato». «Anche a me», disse Maria sorridendo. «Oh, Inglese, il mio nome è Roberto». «No, io ti chiamo Inglese, come Pilar». «Tuttavia è Roberto». «No», insistette. «Ora per un giorno intero è Inglese. E dimmi, Inglese, non posso aiutarti nel tuo lavoro?» «No, quello che ho da fare lo faccio da solo e molto freddamente con la mia testa». «Bene», disse Maria. «E quando sarà finito?» se avrò fortuna stasera. Bene. Sotto di loro c'erano gli ultimi boschi che portavano al campo. Chi è lì? Disse Robert Jordan, accennando con la mano. È Pilar, disse la ragazza guardando nella direzione che gli indicava. Sì, è Pilar. «Vieni», disse Robert Jordan, e cominciò a correre verso Pilar nell'erica alta fino alle ginocchia. E quando le fu vicino, disse con voce brusca, «Pilar!» La donna alzò la testa e lo guardò. «Ah», disse, «avete già finito? Non ti senti bene?» Egli le chiese, piegandosi su di lei. «Che va?» disse Pilar. «Dormivo!» «Pilar!» disse Maria, avvicinandosi a sua volta e inginocchiandosi. «Come ti senti? Stai bene?» «Magnificamente», disse Pilar, ma non si alzò. Li guardava tutti e due. «Bene», disse. «Hai fatto di nuovo i tuoi trucchi di uomo». «Stai veramente bene?» domandò Robert Jordan, fingendo di non udire. «Perché?» «Ho dormito. E tu?» «Io no». «Bene», disse Pilar alla ragazza. «A te si direbbe che giovi». Maria arrossì e non rispose. «Lasciala in pace», disse Robert Jordan. «Non parlavo con te», gli disse Pilar. «Maria», disse, e la sua voce era dura. La ragazza teneva gli occhi abbassati. «Maria», ripeté la donna. «Ho detto che a te pare che giovi». «Lasciala in pace», ripeté Robert Jordan. «Tu sta zitto», disse la donna senza guardarlo. «Ascoltami, Maria, dimmi una cosa». «No», disse Maria e scosse il capo. «Maria», disse Pilar, e la sua voce era dura come la sua faccia e non c'era niente di amichevole nel suo viso. «Dimmi una cosa, quella che vuoi». La ragazza scosse il capo. «Maria», disse Pilar, «dimmela ora e a volontà tua. Mi senti? Una cosa qualunque, quella che vuoi». «No», disse piano Maria, «no e no». «Sì, me la dirai», disse Pilar. «Una cosa qualunque, vedrai che me la dirai». «La terra si è mossa», disse Maria senza guardare la donna. «Veramente, è stato qualcosa che non posso dirti». «Così», disse Pilar, e la sua voce adesso era calda e affettuosa, senza più traccia di prepotenza. Ma Robert Jordan notò che la sua fronte e il labbro superiore erano coperti di goccioline di sudore. «È stato dunque così. È stato così». «È vero», disse Maria e si morse il labbro. «È accaduto, Pilar». «Come che no, hija?» disse Pilar. «Come no, figliola? Quando ero giovane la terra si muoveva talmente che la sentivo spostarsi nello spazio e avevo paura che mi sprofondasse sotto. Ogni notte era così». «Tu menti», disse Maria. «Sì», disse Pilar, «mento. La terra non si muove mai più di 3 volte in una vita umana. Si è davvero mossa? Sì, disse la ragazza, veramente. Anche per te, Inglese, disse Pilar guardando Robert Jordan, non mentire. Sì, disse egli, veramente. Bene, disse Pilar. Bene, questo è qualcosa. Che significa 3 volte? Chiese Maria. Perché lo dici? 3 volte, disse Pilar. E voi ne avete avuto una. Solo 3? Disse Maria. Per la maggior parte degli uomini nemmeno una, disse Pilar. Ma sei certa che si è mossa? Stavo quasi per cadere, disse Maria. Allora si è mossa davvero, disse Pilar. Venite su, torniamo al campo. Ora, qualunque cosa sia accaduta, è accaduta, e la donna non solo ha costretto la ragazza a dirlo, ma se l'è appropriata e l'ha trasformata in qualche cosa di zingaresco. Se fosse stata malvagità, bisognava ucciderla, ma non era malvagità, era solo il desiderio di non lasciarsi sfuggire completamente la vita, di tenerla stretta attraverso Maria. «Ascoltami, Pilar», disse. Pilar lo guardò sorridendo. «Cosa c'è?» domandò. «Non fare tanto la misteriosa», disse Robert Jordan. «I tuoi misteri mi stancano molto». «Capisco», disse Pilar, annuendo convinta. «E ascoltami, Inglese», disse sorridendo. «Si è mossa la terra?» Hm? «Sì, Dio ti maledica, si è mossa». Pilar scoppiò in una risata che non finiva mai e ridendo guardava Robert Jordan. «Oh, Inglese, Inglese», diceva ridendo, «sei molto comico. Dovrai fare molto lavoro ora per riconquistare la tua dignità». «Ti porti il diavolo», pensò Robert Jordan, ma non aprì bocca. Mentre la donna parlava, le nuvole avevano coperto il sole e come egli si volse a guardare i monti, vide che il cielo era coperto grigio. «Certo», disse Pilar, guardando anche lei il cielo, «nevicherà. Ora, ma siamo quasi a giugno. Perché no? Questi monti non sanno i nomi dei mesi. Siamo nella luna di maggio». «Ma non può essere neve», disse egli. «Non può nevicare». «Nevicherà ugualmente, Inglese», essa disse. «Nevicherà egualmente». Robert Jordan guardò il grigio cielo denso. Il sole era diventato di un giallo pallido e mentre egli guardava sparì completamente e il grigio salì e si diffuse tetro e soffice, decapitando i monti. «Sì, forse hai ragione». Quando giunsero al campo nevicava già. Furibondo, Robert Jordan stava davanti all'ingresso della caverna e guardava. «Avremo molta neve», disse Pablo. La sua voce era rauca, gli occhi rossi e torbidi. «Lo zingaro è tornato?» domandò Robert Jordan. «No», disse Pablo. «Né lui né il vecchio. Vuoi accompagnarmi al posto di guardia più alto sulla strada?» «No», disse Pablo. «Non voglio mischiarmi in questa faccenda. Lo troverò da solo». «E in una tempesta come questa potresti non trovarlo», disse Pablo. «Io non andrei ora. Non c'è che da scendere fino alla strada e poi seguirla. Sì, forse ti raccapezzerai, ma la neve farà tornare indietro le tue sentinelle e potreste non incontrarvi. Il vecchio mi aspetta». «No, tornerà, ora che ha visto la neve». «Così la tua offensiva se n'è andata per aria, inglese», disse. «Vieni dentro, la tua gente sarà qui a momenti». Dentro la caverna, Maria era affaccendata intorno al fuoco e Pilar cucinava. Il fuoco mandava fumo e Maria lo attizzò, gettò tra le ceneri un pezzo di legno e si mise a far vento con un foglio di carta pieghettato. Si udì un cigolio, una fiamma divampò e il legno cominciò ad ardere con una fiamma chiara, ravvivata dal vento che si ingolfava nel foro del tetto. «Maledetta neve», disse Robert Jordan. «Credi che nevicherà molto?» «Moltissimo», fece soddisfatto Pablo. Poi gridò a Pilar. «Nemmeno a te piace, mujer? Ora che comandi tu, questa neve non ti piace». «Amiche?» disse Pilar voltando appena la testa. «Se nevica, ebbene nevica». «Bevi un po' di vino, inglese», disse Pablo. «Io ho bevuto tutto il giorno aspettando la neve». «Dammi una tazza di vino, per favore, Pilar». Poi a Pablo. «Molta neve, Mucha nieve». L'ubriaco alzò la testa e, guardandolo sghignazzando, fece di sì con la testa e si rimise a sghignazzare. «Niente offensiva, niente aviones, niente ponte, solo neve», disse Pablo. «Credi che durerà molto?» chiese Robert Jordan sedendosi accanto a lui. «Credi che saremmo bloccati tutta l'estate dalla neve, vecchio Pablo?» «Non tutta l'estate», disse Pablo. «Oggi e domani sì. Perché lo pensi?» «Ci sono due specie di tempeste», disse Pablo con tono importante e saputo. «Una viene dai Pirenei e porta un gran freddo. Questa qui invece viene dal Cantabrico», disse Pablo. «Viene dal mare e quando il vento soffia da quella direzione c'è sempre una gran tempesta e cade molta neve». «Dove hai imparato tutto questo, vecchia birba?» chiese Robert Jordan. «E che cosa facevi prima di entrare nel movimento?» «Lavoravo per un mercante di cavalli di Saragossa, che forniva cavalli alle arene e all'esercito. Fu allora che conobbi Pilar. Viveva, come ti ha raccontato, con il matador finito da Palencia», disse questo con un certo orgoglio. «Un matador che non era niente di speciale», disse uno dei fratelli seduti a tavola, guardando la schiena di Pilar, che stava dinanzi al focolare. «No», disse Pilar, voltandosi e guardando l'uomo, «non era niente di speciale». Là nella caverna, davanti al focolare, ella lo vedeva piccolo e bruno, con la faccia seria, gli occhi tristi, le guance affossate e i capelli neri ricadenti in riccioli umidi sulla fronte, dove lo stretto cappello da matador aveva lasciato una striscia rossa che nessun altro notava. Era rimasta così con lui 5 anni e non gli era mai stata infedele, cioè quasi mai. E poi, dopo il funerale, si era messa con Pablo, che conduceva nell'arena i cavalli dei Picadores, ed era come tutti i tori che finito aveva passato la vita ad uccidere. Ma né forza né coraggio di toro durano. E adesso Pilar lo sapeva. E che cosa dura allora? «Io duro», pensò Pilar. «Sì, sono durata. Ma per che cosa?» Proprio in quell'istante lo zingaro entrò nella caverna. Era coperto di neve, teneva in mano il moschetto e batteva i piedi per far cadere la neve. Robert Jordan si alzò e andò verso l'ingresso. «Ebbene?» chiese allo zingaro. «Turni di 6 ore, sempre 2 uomini insieme al Ponte Grande», disse lo zingaro. «Nel casotto del cantoniere 8 uomini e un caporale». «E il posto di guardia alla segheria?» «Laggiù c'è il vecchio, può sorvegliare tanto il posto di guardia che la strada. «E la strada?» chiese Robert Jordan. «Il solito movimento», disse lo zingaro. «Niente di straordinario, qualche automobile». Lo zingaro sembrava gelato, il suo viso bruno era stirato dal freddo. Fermo all'ingresso della caverna, si tolse la giacca e la scosse. «Ho aspettato che venissero a dare il cambio alla sentinella», disse. «Il cambio l'hanno dato 2 volte, a mezzogiorno e alle 6. È una guardia lunga, meno male che non sono nel loro esercito». Robert Jordan si infilò la giacca di cuoio. «Andiamo a cercare il vecchio», disse. «Io non vengo», disse lo zingaro. «Io ora voglio il fuoco e la minestra calda. Spiegherò a uno di questi dove è il vecchio e lui ti accompagnerà». «Ehi, sfaticati!» gridò agli uomini seduti intorno alla tavola. «Chi vuole accompagnare l'inglese dove il vecchio sta sorvegliando la strada?» «Io», disse alzandosi Fernando. «Dimmi dov'è». «Senti», disse lo zingaro, «è qui». E gli disse dove era appostato il vecchio Anselmo. Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.